Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, l'ultima della settimana. I temi, beh, chiaramente è l'atteso decreto sulle liberalizzazioni, atteso ma ancora atteso, perché da quasi 7 ore è riunito il Consiglio dei Ministri per dare via libera al decreto legge sulle liberalizzazioni, riunione iniziata poco dopo le 10.30, doveva in teoria terminare verso l'1, esserci una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Monti, così non è stato ancora. Da quello che si è appreso, adesso avremo nuovi collegamenti, potrebbe essere adesso tra le 5 e le 6 di pomeriggio la conferenza stampa di Mario Monti, ma soprattutto le agenzie hanno continuato a battere nel corso della giornata nuove versioni su alcuni punti, soprattutto della bozza, che è appunto una bozza e quindi non è il testo definitivo, su taxi, su liberalizzazioni del commercio, sulle edicole, adesso sulle farmacie. Cercheremo di fare il punto con il beneficio del dubbio, perché si tratta, ripeto, nonostante diano le ultime versioni, le agenzie le riportino come le versioni definitive, stiamo sempre parlando di bozze. Nel frattempo, come vanno i mercati? Devo dire, Milano bene anche oggi, nel senso che guadagna lo 0,10%, ma Parigi perde lo 0,20%, Francoforte perde lo 0,12%, Londra meno 0,17%, quindi tutto sommato bene Milano. L'America guadagna lo 0,40%, l'euro è in rafforzamento a 1,2921, lo spread è sceso leggermente a 440 punti, sono ancora tanti, basta fare riferimento allo studio della Banca d'Italia di 2 giorni fa, che diceva se c'è uno spread che scende a 350 punti nel 2013 l'Italia probabilmente esce dalla recessione, quindi chiude l'anno con un segno più 0,8%, se invece uno spread si mantiene intorno ai 450-500 punti sarà recessione, quindi segno meno anche nel 2013. Nel 2012 tutti quanti sono sicuri che, anzi il Fondo Monetario ieri l'ha portato al 2,6%, il calo del PIL italiano per l'anno in corso. Bene Finmeccanica più 9,17%, Monte dei Paschi più 7%, Atlantia più 4,70%, Parmalat pure, Intesa San Paolo più 3%, Ubibanca più 1,60%, come Pirelli in pregiro più 1,20%. Negativa Mediobanca meno 2%, Popolare Emilia Romagna che ieri molto aveva corso meno 1,90%, Saipem meno 1,70%, Unicredit meno 1,5%, anch'essa ieri fortissima. In borsa Generali meno 1,30%, come Snam, Rete Gas, Tenaris meno 1,15%, Campari meno 1%. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Il lingotto, sia l'oro, è salito a 1657 dollari l'oncia, il petrolio invece è sotto ma di pochi 100 dollari a 99,65 dollari, lo spread, ripeto, è sceso a 440 punti base. Tra l'altro, sul fronte dei debiti europei, il governo greco e i creditori privati greci avrebbero raggiunto un accordo di massima sulla ristrutturazione volontaria del debito greco, che vuol dire che i creditori privati della Grecia devono accettare di avere molto molto meno di quanto prestato sotto forma di bot o BTP alla Grecia. Praticamente la ristrutturazione è di poco superiore al 50%, da quello che si è capito le parti avrebbero deciso di sostituire il debito esistente con obbligazioni trentennali, con una cedola iniziale del 3% e finale del 4,75%. Dati sull'economia italiana, fatturato in stallo per l'industria italiana nel mese di novembre, più 0,2% sull'anno prima invece, e gli ordinativi sono quasi fermi a novembre e in calo rispetto a novembre di un anno prima, e dagli ordinativi si capisce poi quello che il Centro Studi Confindustria ha già stimato, cioè la frenata dell'attività industriale italiana a dicembre e quindi l'ingresso nel 2012 frenando e non crescendo, il che appunto è un ennesimo segnale che porta tutti gli istituti a stimare appunto una recessione per l'anno in corso nel nostro paese. Firmato ieri in serata invece l'accordo e il contratto dei bancari, che riguarda 170 euro sostanzialmente di aumento economico medi da riparametrare in base agli inquadramenti dei lavoratori. Sostanzialmente il fondo a regime, tra l'altro, perché viene stabilito anche la creazione di un fondo per la buona e stabile occupazione, a cui contribuiranno economicamente con il 4% del proprio stipendio gli alti dirigenti bancari. Il fondo a regime permetterà l'assunzione di circa 16.500 giovani nei prossimi 3 anni, con l'obiettivo di arrivare a 25.000 in 5 anni. Ma i giovani con questo accordo entreranno in banca con un salario temporaneamente ridotto del 18%. Sentiamo al microfono della nostra Valentina Fulanetto il segretario generale della FABI, che è la più grande organizzazione che rappresenta il mondo dei bancari, Lando Sileoni. C'è una soddisfazione particolarmente consapevole, diciamo così, perché il momento era difficilissimo, i bilanci delle banche vanno sempre diminuendo, c'è una situazione complessiva di grande disagio, soprattutto nella nostra società, e quindi aver rinnovato un contratto per i prossimi 3 anni con un aumento di 170 euro medio per noi è un fatto estremamente positivo. Avete ottenuto per i neoassunti il contratto indeterminato da subito, però un livello di stipendio più basso? È vero, c'è un salario d'ingresso per i neoassunti che prevede una diminuzione del 18% rispetto alle attuali previsioni contrattuali riguardanti la parte economica, ma è altrettanto vero che noi siamo riusciti a trovare delle soluzioni all'interno del nostro sistema, quindi le organizzazioni sindacali con le banche, perché abbiamo creato un fondo che garantirà, un fondo per l'occupazione che garantirà per i prossimi 3 anni 16.500 nuove assunzioni, con l'obiettivo di arrivare a 25.000 per i prossimi 5 anni. Da quanto attendevate la firma del rinnovo del contratto? Diciamo che il contratto era scaduto da oltre un anno, le trattative erano ormai partite da diversi mesi, alle 18 di ieri abbiamo sfiorato la rottura complessiva e con la conseguente mobilitazione di tutta la categoria, e per noi è un motivo di soddisfazione ancora più forte l'aver conseguito un contratto senza un minuto di sciopero. Uno sciopero costa per il lavoratore e soprattutto in un momento di crisi come questa pesa nel bilancio familiare ancora di più, quindi la nostra è stata una decisione di grande responsabilità, ma è soprattutto di grandissima attenzione verso la categoria. E poi la protesta dei forconi, volete sapere? Allora, cesserà a mezzanotte la protesta degli autotrasportatori siciliani aderenti alla sigla AIAS, che da lunedì hanno paralizzato l'isola con blocchi di tir, presidi nei principali snodi stradali e tra l'altro hanno bloccato anche l'approvvigionamento delle forniture di benzina e generi alimentari. Non cesseranno invece di protestare gli aderenti ai movimenti Forza d'Urto e Movimento dei Forconi, che hanno annunciato di voler andare avanti ad oltranza. Ribadisce il suo allarme invece Confindustria Sicilia, con il presidente Ivan Lobello, che teme che dietro a questa agitazione, l'abbiamo avuto ospite ieri, possa celarsi l'ombra della criminalità organizzata. Lui non ha detto possa, ha detto che ha notizie fondate su questo. Oggi volete sapere cosa, insomma, io non ho capito, al di là del caro vita, del caro benzina che affligge tutti gli autotrasportatori, dei temi classici della nostra agricoltura, cioè è un'agricoltura che va in tutta la parte europea e non solo l'Italia, ma in buona parte va aiutata, ed esiste appunto la PAC, la politica agricola comunitaria, tutti temi giusti, per carità. Non capisco perché adesso, non capisco cosa sia cambiato adesso, se non per gli autotrasportatori, ma ripeto, vale per tutto il paese, allora dovrebbero bloccarsi tutti. non capisco perché se la prendono molto con Roma, Lombardo è anche andato tra loro, quando essendo una regione autonoma dovrebbero chiedere aiuti anche e iniziative alla regione Sicilia, così prodiga, l'abbiamo raccontato ieri, nello spendere soldi con gli stipendi eccezionali dei suoi assessori e consiglieri regionali. Che cosa volete che vi dica? Io non ho capito poi alla fine, al di là di proteste che sono comprensibili ma valgono per tutti, che cosa si voglia ottenere, se non che lo Stato, come per salvare il comune di Catania, no, ricorderete, prima iniziativa del governo Berlusconi, 300 milioni al comune di Catania, e votarono anche i leghisti, perché che aveva le finanze completamente disastrate. Oggi era prevista la marcia a cavallo su Palermo dei manifestanti, coordinati dal presidente dell'Accademia Italiana Alta Scuola Equestre, il duca Onofrio Carrubba Toscano. Chissà se c'è stata. Invece una cosa importante di cui parleremo fra un attimo è il CIPE, che ha sbloccato 3 miliardi e 900 milioni di euro per nuove reti ferroviarie anche sulla Napoli-Bari e la Salerno-Reggio Calabria, la Lecce, parlo di ferrovie in questo caso, la Napoli-Bari-Lecce-Taranto. Anzi, diamola subito la notizia, perché sono 3 miliardi e 9 su 5 miliardi e mezzo stanziati che vanno alle reti ferroviarie. E ripeto, Napoli, Bari, Lecce, Taranto 790 milioni di euro, Salerno, Reggio Calabria 240 milioni, Potenza, Foggia 200 milioni di euro. E adesso, prima di arrivare poi alle novità, modifiche, ultime bozze, raccontiamo questa crisi con nei suoi aspetti più paradossali. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, c'è una cosa interessante nel decreto mille proroghe, che praticamente non aumenterà i contributi degli autonomi, viene riferito dalle persone vicine al ministro Elsa Fornero, ma c'è la proroga della sanatoria per le affissioni abusive dei partiti politici. Adesso a me non piace fare demagogia sui politici, sui partiti e sulla politica, però non è possibile che, insomma, mentre alcuni deputati si sono inalberati contro il taglio ai vitalizi, praticamente circa 100 milioni di euro di multe ricevute nell'ultimo anno dai partiti verranno condonate. Sono multe per affissioni abusive. Pensate, 6 milioni di euro di multe solo a Milano nell'ultima campagna elettorale, quella di Pisapia. Praticamente lo Stato non ha riscosso dai partiti dal 1996 ad oggi, tra condoni, proroghe dei condoni e sanatorie, circa 1 miliardo e 300 milioni di euro in, appunto, stiamo parlando di 6 anni scarsi, di 18 anni scarsi, scusatemi, non ha riscosso 1 miliardo e 300 milioni di euro. Solo 100 milioni di multe che andavano riscosse nell'ultimo anno verranno di fatto condonate. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E invece la Gran Bretagna continua a usare l'accetta non solo sulle spese dei suoi parlamentari. Vi abbiamo raccontato tre giorni fa che praticamente ai ministri sono state tagliate le auto blu, e per cui dovranno utilizzare i mezzi di trasporto, a meno che non debbano andare recarsi dal lavoro all'ufficio fuori Londra, per cui se abitano fuori Londra possono avere delle auto a disposizione, sono i mezzi pubblici. E continuano i tagli in Gran Bretagna. Il Ministero della Difesa fa i saldi di fine stagione: camicie militari, stivaloni, gonnellini dei reggimenti scozzesi, ma anche motovedette più o meno in buono stato, un aereo da guerra senza motori, che non sta trovando acquirenti, anche perché o lo compri per i figli o non si capisce che te ne fai. Il nuovo proprietario deve portarselo a casa da solo. Insomma, praticamente sta vendendo oggetti di seconda mano, non fucili, ci mancherebbe. Pensate che con 60 sterline, IVA e spedizione compresa, uno si può comprare il kilt di ordinanza dei battaglioni scozzesi, come i leggendari Black Watch o Seaford Highlanders. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. No, io dico, adesso è chiaro che non risolvi i problemi del debito italiano facendo pagare ai partiti 100 milioni di euro per i manifesti affissi in maniera abusiva, ma siccome è una pena, c'è cioè una pena amministrativa, proprio perché sei un partito politico dovresti essere il primo a pagare, fossero 100 milioni, un milione, no? E visti i sacrifici che stai chiedendo. Senza grandi distinzioni, non ci sono molti santi nell'abusivismo dei cartelloni. Vincenzo Miglietta, esausto, come stai? Buonasera. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. No, dico esausto perché la riunione, il Consiglio dei Ministri è iniziato alle 10.30 e poi l'attesa era per una conferenza stampa alle 13, in realtà tutto slitta alle 14, si è saputo che forse la conferenza stampa sarà alle 17, mi sembra di poter dire che è slitta anche quella. Sì, slitta anche quella, la nuova voce che circola è una conferenza stampa entro le 18, sempre che poi non si realizzi lo scenario peggiore per tutti, credo, che è quello di un rinvio del Consiglio dei Ministri a domenica addirittura. Peggiore per te soprattutto. Sì, sicuro. Tocca lavorare anche la domenica. Vabbè, allora no, il scenario peggiore nel senso che vorremmo avere la possibilità di darvi il testo definitivo, perché quello di cui ragioniamo adesso sono le bozze, bozza su bozza potremmo dire, perché di bozze ne sono uscite parecchie, di modifiche. Io andrei per punti cercando di capire che cosa è cambiato rispetto alle notizie che avevamo, diciamo, questa mattina. Farmacie, confermate 2-3 mila nuove farmacie, liberalizzazione di orari turni, sconti su tutti i farmaci non rimborsati dallo Stato, però sui farmaci di fascia C c'è una conferma a questo punto? A questo punto è una conferma, nel senso che i farmaci di fascia C restano nelle farmacie, cioè possono essere venduti solamente nelle farmacie, quindi non escono da questo perimetro, e quindi il comma che una precedente bozza prevedeva e che consentiva con alcuni vincoli che questi farmaci fossero venduti al di fuori delle farmacie, al momento non risulta più presente nell'ultima versione all'esame in questi minuti del Consiglio dei Ministri. Quello potremmo, a meno che non ci sia veramente una nuova sorpresa, confermate 2-3 mila nuove farmacie, liberalizzazione di orari turni, sconti sui farmaci non rimborsati dallo Stato, però i medicinali di fascia C restano in farmacia. Allora, il risparmio stimato annuo per una famiglia di 4 persone è di 70 euro, che è un po' pochino, chiaramente cambiano le cose a seconda che uno sia anziano o abbia molti figli piccoli, ossia invece nell'età in cui tendenzialmente vai meno in farmacia, al di là di altri motivi per cui uno ci può andare, ma non voglio scendere su altri livelli. Allora, liberalizzazione per quello che riguarda invece... Ah, tra l'altro c'è una novità sul fronte dell'obbligo a temperare questa liberalizzazione, cioè c'è anche un commissario che verrebbe nominato? Per quanto riguarda il commissario, sì, non si hanno certezze e conferma al momento, ma sembra sì che l'orientamento del governo sia quello comunque di affidare ad una persona, tra virgolette, una persona terza, l'attuazione delle varie misure e che quindi vi sia una corrispondenza con quanto deciso e anche nei tempi di attuazione. Ecco, per vedere se entro 4 mesi, stando sempre alla bozza, le farmacie si adegueranno a quanto deciso. I taxi, quindi restiamo sui temi che più hanno fatto discutere. Allora, eravamo rimasti al balletto su questa, chi avrà in mano il bandolo delle licenze. Sembrava dovesse essere tornato ai comuni, mi sembra che qui invece ci sia una nuova versione. Sì, è così. Allora, nel primo pomeriggio il rilascio delle licenze era tornata, come si suol dire, in capo ai comuni, quindi una versione più soft della liberalizzazione sui taxi. L'ultima versione invece rimanda il rilascio delle licenze a questa autorità per le reti, che sarebbe solamente una nuova versione dell'autority per l'energia. L'autorità per le reti si occuperebbe quindi anche di trasporti. E passerebbe invece, sarebbe comunque confermata la novità relativa alla possibilità di avere licenze plurime a testa, Ogni tassista potrebbe avere più di una licenza? più di ogni scienza, giustamente. Mm. E poi l'extraterritorialità, ovvero poter... sì, che non vuol dire andare, cioè, andare in Svizzera, ma vuol dire semplicemente che il tassista può operare al di fuori del comune dove ha la licenza, giusto? Assolutamente, assolutamente. Mm. Ricorderemo su questo la nota querella, soprattutto anche con i noleggiatori con conducente, sì, di varie licenze date a piccoli comuni fuori delle grandi città che invece poi operano nei grandi capoluoghi. Sì, su questo diciamola tutta, così poi nei grandi capoluoghi forse ci sarà un minore impatto, però non è infrequente, lo dico per esperienza, andare in città medie, non piccole, medie, medio grandi, capoluoghi di provincia, diciamo, e non trovare in nessun modo un taxi, perché magari in quell'occasione c'era una manifestazione straordinaria, che ne so, un convegno, un'assemblea, un congresso, un evento, un concerto e quant'altro. In quei casi, forse per i capoluoghi di provincia medi, questo può essere interessante. Non so, che da Piacenza arrivino i taxi di Pavia, o da Modena arrivino i taxi di Reggio Emilia, se c'è una necessità. Non capisco il perché della rigidità, onestamente. Sempre tassisti sono, e anche loro hanno la famiglia, e anche loro hanno pagato la licenza. Risparmio stimato da queste misure, come sia stato stimato non lo so, 100 euro. Quindi la competenza andrebbe appunto all'autorità. Luce, gas, benzina. Luce, gas, benzina, sotto questo aspetto qui al momento non ci sono grandi novità rispetto al testo che è circolato nelle ultime ore. Fino a ieri, per quanto riguarda i benzinai, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, titolari anche della relativa autorizzazione petrolifera, possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore. Bene. E niente limiti per i distributori di benzina self-service fuori dai centri abitati. C'è lo scorpore invece per quanto riguarda il gas della rete, quindi Snam da Eni, e non risulta invece al momento lo scorporo della rete ferroviaria da FS, sì. E questo è un altro aspetto, perché lì si può fare un po' di più, cioè, adesso non è solo la concorrenza sull'alta velocità, quella già ha tra pochissimo secondo operatore NTV Italia di Montezemolo e altri soci, ma è la concorrenza regionale. Ricordate il caso di Arena Ways, tentò di fare concorrenza all'FS tra Torino e Milano, però poi c'è una legge che impedisce a chi fa i collegamenti regionali di fermarsi in altre località della regione che attraversa, per cui la rendi impossibile. E fate la concorrenza anche sui pendolari e sul treni locali e regionali, mica c'è solo l'alta velocità nella vita. Risparmio stimato dalla benzina 250 euro all'anno, dal luce e gas 150 euro all'anno, questo per quello che riguarda le esclusive. Devo dire che ieri abbiamo avuto ospite il segretario della FAIB, che rappresenta il maggior numero di gestori di pompe di benzina, che era assolutamente a favore di questo aspetto e avevano minacciato lo sciopero se il governo avesse fatto retromarcia, cioè uno sciopero pro liberalizzazioni, perché dicono è giusto anche non avere l'esclusiva e poter scegliere tra diversi operatori. Avvocati e professionisti. Avvocati e professionisti, scusami, ma ricordo solamente una cosa sulla benzina. Ah, dimmi. Non c'entra nulla con le liberalizzazioni, ma il garante sugli scioperi ha detto che i benzinai non potranno scioperare più di 3 giorni. Questo è importante dirlo, perché invece le varie voci che erano circolate parlavano di uno sciopero prossimamente addirittura di 7 giorni consecutivi, sì, mentre invece è stato ricordato che più di 3 giorni non possono essere fatti. Allora leggo una mail intanto di un ascoltatore: abito in un paese, Saluzzo, quindi Piemonte immagino, lunedì le farmacie sono tutte chiuse tranne una. Ma perché è festivo solo per i farmacisti? No, questa è un'altra assurdità, cioè, voglio dire, io non ho mai capito perché le farmacie chiudono lunedì, i barbieri pure, altre categorie mercoledì, ferramenta mi sembra sabato, cioè è una cosa medievale, uno chiude quando l'altro è aperto e l'altro chiude quando il concorrente è aperto, in modo che ci sia sempre un servizio. Ma che è sta cosa che tutti chiudono lo stesso giorno come nelle corporazioni medievali? E lì facciamo anche sentire tra un attimo un piccolo calta. Andiamo avanti con avvocati e professionisti. Dal Consiglio dei Ministri di oggi, quindi, restano abrogate le tariffe professionali, sia minime sia massime, L'obiettivo è logicamente lasciare la libera contrattazione tra il professionista e il cliente, e il professionista però dovrà fare un preventivo scritto allo stesso cliente, e quindi non c'è una determinazione a priori degli onorari dovuti per l'opera professionale. Poi speriamo che regga, perché questa è sempre la bozza, ma insomma basta con le tariffe minime. Ogni professionista farà giustamente il preventivo scritto, ma insomma le tariffe professionali sia minime che massime, giustamente. Sì. Uno, se un giovane avvocato con pochissima esperienza praticherà una tariffa molto bassa, magari troverà clienti appunto più giovani che non vogliono spendere. Se è un avvocato di grido, farà la tariffa massima, quanto vuole lui, poi sta il cliente a scegliere. Non si capisce perché funziona nel mondo del commercio, non posso funzionare nel mondo degli avvocati. Tanto poi, una volta che l'avvocato è avvocato, c'è l'ordine che garantisce, no? Sulla deontologia, non sulle tariffe. Ancora, la revisione della pianta organica dei notai con 500 nuovi ingressi, no? Sì, si apre logicamente anche a livello numerico all'ingresso di nuovi notai, proprio per rendere comunque più presenti sul territorio, non tanto nelle grandi città quanto nel resto del paese, la disponibilità di notai. E ancora, quindi, risparmio stimato da questa misura 400 euro all'anno. Qui stiamo stimando il risparmio per una famiglia di 4 persone, di 4 componenti. Banche, allora, conto corrente bancario di base e poi poco altro, mi sembra. Conto corrente bancario di base e poi per quanto riguarda i mutui, chi contrae un mutuo potrà scegliere fra almeno 2 gruppi assicurativi presentati dalle banche. Con il quale logicamente stipulare il contratto. Questa è la bozza di ieri sera, e poi il conto corrente bancario di base, proprio per facilitare l'utilizzo, il minore utilizzo da adesso in poi del contante. Ci mancano ancora RC Auto, quindi assicurazione, mondo del commercio e ferrovie, autostrade, stanno uscendo anche flash di agenzia, direi. Allora, continuiamo con gli aggiornamenti sul decreto liberalizzazioni, in attesa che arrivi la versione definitiva, se non slitta tutto domenica. Devo dire, poi nella seconda parte avremo anche un'analisi e anche, se vogliamo, critica. Però attenzione, sicuramente ci sono delle cose che non vanno bene, qualche retromarcia, un po' di timidezza eccessiva, però almeno sto governo ci ha tentato, questo lo possiamo dire. Poi facciamo tutte le critiche che vogliamo, ma questo governo almeno ci sta tentando. E la forza delle varie lobby, degli vari ordini, delle varie categorie si vede proprio da quello che sta capitando in questi giorni. E lì purtroppo va anche detto che forse un governo politico in questo momento non avrebbe mai avuto la forza per farlo, perché ogni lobby, ogni categoria ha poi un potere di ricatto enorme sul fronte dei voti. Comunque, torniamo a palla con Vincenzo Miglietta. Allora, le banche, il conto bancario di base e poi la possibilità di scegliere tra almeno due offerte per l'assicurazione sulla vita associata al mutuo per la casa, risparmio stimato qui 200 euro, RC Auto e commercio. RC Auto, rimaniamo alle anticipazioni di ieri relativamente alla possibilità, se viene installata la cosiddetta scatola nera, il costo sarebbe a carico delle assicurazioni che in cambio praticherebbero uno sconto sull'RC Auto. La novità di oggi è relativa ad un altro fronte, ma che riguarda sempre l'RC Auto, e la lotta alle frodi, che comunque tengono alto il mercato, il prezzo, e viene prevista la sostituzione nei prossimi 6 mesi, sempre che passi questa bozza, degli attuali contrassegni cartacei con sistemi elettronici o telematici, certo, che quindi dovrebbero rendere più... C'è chi fotocopia o falsifica il... Sei Monti, rispondi, se no metti giù. Chi falsifica l'assicurazione da porre sul vetro dell'auto. Allora, obbligo di proporre più offerte tra i concorrenti, scoraggiato il risarcimento del danno con denaro contante, risparmio stimato anche qui intorno ai 350 euro, sempre per una famiglia con 4 persone. È chiaro che è una media di trilussa, perché c'è il nucleo di 4 persone può avere più utilizzo dell'auto, può andare più in farmacia, può ricorrere più all'avvocato, ognuno di noi ha ha vite per fortuna diverse, ma insomma è una media. Commercio? Per il commercio resterebbe la libertà di orario. Di promozione. Però la norma sui saldi è saltata? Ecco, infatti salta, quindi a fronte della libertà di orario salta la libertà promozionale cosiddetta, che però poi nello specifico era relativa ai famosi bollini oppure alle promozioni 2x3, in questo caso sarebbe saltata e non sarebbe seguita questa strada. Le motivazioni onestamente non so per quale motivo, è vero che le associazioni dei commercianti erano comunque contrarie a questa liberalizzazione sotto questo aspetto. Allora, c'è chi dice, insomma, i vostri commenti sono approssimativi, è approssimativa la bozza, noi veramente commenti non ne ho ancora fatti, poi aspetti a criticare quando sentirà i commenti, però la stiamo raccontando le modifiche ultime intervenute alla bozza sulle liberalizzazioni, alcune agenzie datano 16:40, una che adesso vi leggo 17:14 minuti, sembra che vi sia dentro il decreto anche lo stop a tutti i vincoli che limitano l'avvio di una nuova impresa, praticamente verrebbero abrogate tutte le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti d'assenso della pubblica amministrazione per l'avvio di un'attività economica. Sarebbe importantissimo, perché più volte abbiamo raccontato le ore di lavoro e le giornate di lavoro richieste per adempimenti burocratici in questo paese, gli anni che ci si mette a aprire un'impresa o ad avere un capannone rispetto alle settimane e mesi, per esempio, della vicinissima Spagna. Andiamo avanti, però, ferrovie e autostrade. Sì, volevo solamente dire un'altra cosa. Dimmi. Sulle imprese, giustamente ricordavi la necessità di snellire la burocrazia per le imprese, a tal fine arriverebbe un tribunale delle imprese, sarebbero dei tribunali che si specializzerebbero proprio a dirimere i contenziosi tra il commercio, tra il mondo imprenditoriale. Invece una norma che è entrata ed uscita e potrebbe anche essere rimasta è che la pubblica amministrazione potrebbe pagare gli arretrati alle imprese, sappiamo di che argomento stiamo parlando, molto importante, attraverso i titoli di Stato. Quindi c'è quella parte? Voci dicono di sì e voci dicono di no, sarebbe una cosa molto importante. Ce la giochiamo. No, è fondamentale, perché qui ci sono 60 miliardi di euro di pagamenti arretrati che la pubblica amministrazione deve versare alle imprese, 70% dei quali sono sanità, cioè pagamenti della sanità. E il ministro Passera fin dall'inizio disse: beh, potremmo pensare a pagare con bot o che comunque permetterebbero all'imprenditore di avere una garanzia nei confronti della banca, perché comunque hai titolo di Stato come pagamento. Allora, commercio, quindi sembrerebbe saltata la norma sulle promozioni, cioè quella sulle semplificazioni delle vendite promozionali dei saldi nel commercio, e invece sì alla norma che modifica e flessibilizza gli orari. Ferrovie e autostrade, vai Vincenzo. Sì, per le ferrovie abbiamo ricordato al momento che non ci sarebbe lo scorporo tra rete e FS, ma quello che interessa in questo momento è anche il fatto che per le imprese ferroviarie, le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che operano in Italia, non ci sarebbe più l'obbligo per queste di osservare i contratti collettivi nazionali di settore. Questo sarebbe un punto confermato nella bozza. Per le autostrade parliamo di un altro decreto, oltre a quello delle liberalizzazioni, sempre per fare entrare dei nuovi operatori nel settore, che comunque riescano a lavorare nell'ambito delle autostrade. Viene aumentata dal 40 al 50% la quota dei lavori che il concessionario autostradale può affidare a terzi, quindi in teoria si dà lavoro a più imprese. Cioè si dà la possibilità di dare lavoro. Perché questo riguarda però tutti i titolari di concessioni già affidate alla data del 30 giugno 2002. Attenzione, viene introdotto anche il price cap, cioè il fatto che la tariffa, il pedaggio autostradale deve essere legato a investimenti, però solo alle nuove concessioni autostradali, non a quelle già in essere. Anche qua ho capito che sarebbe stata retroattiva, però si poteva chiedere soprattutto a società autostrade, poi vediamo anche gli altri, di una maggior così, collegamento tra l'aumento del pedaggio e gli investimenti fatti sulla rete. L'obbligo, tra l'altro, l'obbligo di dare il lavoro a terzi è un obbligo, scusami, ho sbagliato io, è salito nella nuova bozza al 50%. Dal 40 al 50% l'obbligo di dare lavoro a terzi, quindi la quota di lavori che il concessionario autostradale titolare di concessioni vigenti è tenuto ad affidare a terzi. Poi via libera ai project bond per nuove opere, cioè finanza a progetto. Ancora un recupero veloce delle accise per gli autotrasportatori e via il tetto di 250.000 euro per le compensazioni dei crediti d'imposta. A misure attese da tutti gli autotrasportatori, a partire da quelli siciliani, ma non esistono solo loro, quindi recupero veloce delle accise. No IMU, quindi niente ICI sulle imprese dell'edilizia per le nuove case. Per 3 anni niente ICI per le imprese dell'edilizia sulle nuove case costruite per essere vendute, tolta la estensione invece della class action. Chiudiamo con le spiagge, così chiudiamo in bellezza. Vincenzo. Sì, per quanto riguarda le spiagge, oggettivamente oggi non ci sono novità e quindi si resta sulla norma che prevede il cambiamento rispetto alla situazione attuale, quindi delle gare per l'assegnazione sì, delle concessioni. Anche figlia questa norma di quanto dettato dall'Unione Europea tempo fa, e quindi la possibilità che nuovi soggetti possano intervenire in un mercato che però lì non si capisce se poi ci sarà la norma che vieta la proroga automatica e che prevede che le concessioni balneari abbiano massimo 4 anni. Invece è saltata la norma sulle trivellazioni, quella che faceva molto discutere, cioè quella che avrebbe permesso sostanzialmente alle compagnie petrolifere di trivellare non praticamente a che abbassava il limite delle trivellazioni in mare da 12 miglia a 5 miglia. È saltata, quindi resta 12 miglia il limite, e appunto invece confermato che c'è l'ipotesi di pagare con i BOT. Lo Stato pagherà con suo debito i debiti che ha con le imprese. Sembra una partita di giro, ma in realtà per un'impresa, a mio avviso, che ha 1, 2, 3 anni di ritardo di pagamento da parte dello Stato, della pubblica amministrazione, è meglio avere almeno un bot da poter portare in banca a garanzia che avere nulla. Grazie Vincenzo Miglietta, adesso facciamo la borsa e poi vedremo nuovi aggiornamenti sempre sul decreto tanto atteso. È un parto lunghissimo a questo punto. Dicevo, Milano meno 0,1, Parigi meno 0,22, Francoforte meno 0,20%. Iniziamo, poi lo continuiamo anche dopo il GR. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Devo dire, tutto sommato, anzi, la settimana è sicuramente buona. A questo punto potremmo dire grazie a Standard & Poor's, le borse questa settimana sono andate bene. Milano è rimasta tra le migliori in Europa. Monte dei Paschi più 8% e Finmeccanica più 10,30%. Eh sì, era ora una settimana positiva per le borse dopo tutti i ribassi degli ultimi mesi, e poi proprio tu hai citato due titoli che erano tra i più tartassati negli ultimi mesi, appunto Finmeccanica e il Monte dei Paschi. Finmeccanica fino a prima di Natale era scesa ai minimi storici, sotto addirittura 2,50 euro, oggi in attesa di nuovi ordini ha guadagnato il 10,3%, proseguendo comunque un rialzo che era cominciato poco prima di Natale. Infatti chi avesse comprato le azioni di Finmeccanica poco prima di Natale appunto avrebbe guadagnato il 32%. Per il Monte dei Paschi invece ci sono dei motivi più precisi dietro al rialzo di oggi, e sono fondamentalmente legati al piano che l'istituto ha approvato ieri in consiglio di amministrazione per rispettare i parametri patrimoniali richiesti dall'EBA a livello europeo, e per farlo non si dovrebbe, il condizionale d'obbligo, effettuare un aumento di capitale. Quindi in questo caso la borsa ha deciso di premiare il titolo. Che rappresenta un po' una fregatura per Unicredito, no? Adesso scherzo. Unicredito l'ha fatto, l'avrebbe fatto comunque l'aumento di capitale, però insomma. No, poi bisogna vedere se passa questa norma, certo. Allora, tra le altre banche, bene comunque UBI Banca più 1,60, Intesa San Paolo più 1,50, Banca Popolare di Milano più 0,60. In negativo invece Unicredit meno 1,40% e Mediobanca meno 2%. Tra l'altro è l'ultimo giorno? Ultimo giorno. Per l'aumento di capitale di Unicredit. Campari meno 1% anch'essa. Abbiamo un minuto prima del GR. Vorrei commentare Snam Rete Gas meno 1,40% oggi, mentre Eni meno 0,17%. Beh, il verdetto, insomma, Enera guadagnava anche. Sì, è vero, anche oggi guadagnava. 1% nel primo pomeriggio, il mercato era. Milano guadagnava anche mezzo punto, Eni molto meno. Quindi sull'ipotesi di scorporo, il mercato premia la holding, la capogruppo Eni. Così e sì. penalizza la Snam. Poi, insomma, il verdetto di un giorno del mercato. Anche ieri, però, si era mosso. Sì, certo. Volete sapere dello spread? Lo spread è sceso, è sempre molto alto, è a 440 punti, però. E devo dire che dai 520 da cui avevamo iniziato questa settimana a 440 è ancora poco, ma è già qualcosa. Terminiamo anche il collegamento di borsa e poi torniamo su questo decreto liberalizzazioni che ancora non sta uscendo, stiamo ancora ragionando di bozza, anche se è l'ennesima revisione della bozza, quindi dovrebbe essere il più possibile vicina al testo finale, ma non è il testo finale. Dicevamo invece della borsa, tutto sommato bene, meno 0,13%, ma è la migliore oggi Milano, cali contenuti comunque nel resto d'Europa. Abbiamo detto di Snam e di Eni. Tra gli altri titoli di Finmeccanica abbiamo già commentato, così come Monte dei Paschi, Atlantia più 5,40%. Sì, è il terzo miglior titolo delle blue chip, era stato penalizzato nei giorni scorsi sull'ipotesi che nel decreto liberalizzazione di cui dicevi prima fossero posti fondamentalmente dei tetti alle tariffe autostradali, invece questa ipotesi sembra tramontare, o meglio saranno probabilmente introdotti, ma solo sulle nuove concessioni, quindi oggi Atlantia ha guadagnato il 5,3%, come sappiamo fa capo poi ad Autostrade per l'Italia, ma anche sia se l'autostrada da Torino-Milano, altri operatori autostradali hanno festeggiato con rialzi vicini al 4%. Eh sì, ancora questo, però fatemelo dire, se il mercato compra Atlantia dopo che nei giorni scorsi aveva perso proprio sul timore del decreto liberalizzazioni, vuol dire che si è ammorbidito, stando a quello che sanno gli operatori, si è ammorbidito il decreto sul fronte autostrade, perché sennò sarebbe stata penalizzata come nei giorni scorsi. È un giudizio di fatto, non di valore. Parmalat più 4,90%, Impregilo più 2,20, Pirelli più 2,20, Ubibanca più 1,60. Dicevamo tra i migliori e i peggiori, tra l'altro, allora abbiamo Telecom Italia Media, qui ci sono voci insistenti di mercato, guadagna l'8,5%, è la società di Telecom Italia che controlla la 7, per far capire a tutti. Ciao. Sì, ci sono, ieri sera sono state diffuse delle indiscrezioni su un possibile ingresso nell'azionariato di Urbano Cairo, dell'editore Urbano Cairo, che peraltro è anche il proprietario del Torino Calcio. Cairo dovrebbe entrare con il 15%, ma per il momento non ci sono né conferme né smentite sull'operazione, magari ci saranno delle novità tra virgolette ufficiali con dei comunicati nelle prossime ore. Dobbiamo anche ricordare che negli ultimi mesi sono più volte, diciamo, T-Media è stata al centro di indiscrezioni che hanno portato a oscillazioni del titolo, ma poi l'assetto azionario è sempre rimasto lo stesso. Il miglior titolo in assoluto oggi è Bialetti Industrie più 20%, titolo sottile, ma c'è una notizia forte. Sì, ieri sera ha diffuso a mercati chiusi il comunicato in cui chiariva che è stato rinegoziato il debito con le banche e quindi si potrà affrontare il piano industriale 2011-2015 con maggior respiro, con più ossigeno dal punto di vista finanziario. La società, come sapevamo, era in grosse difficoltà economiche e quindi, insomma, il mercato ha festeggiato. Bialetti poi peraltro è stata sospesa a rialzo per tutta la seduta, è rientrata in negoziazione proprio alla fine. E poi Cadit più 12,60, peggior titolo Antiche Pellettieri più meno 7,90, Archimedica meno 8,70, ha ragione l'ascoltatore che dice non è l'ultimo giorno per l'aumento di capitale ma per negoziare i diritti. Assolutamente. Dell'aumento di capitale di Unicredit, ha ragione, quindi correggiamo su questo. Grazie, buon fine settimana a Ciao Condine, a tutti i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Anche a voi, arrivederci. E torniamo sulla bozza di liberalizzazioni, su quello che sta uscendo da parte quello che stanno battendo le agenzie di stampa, le ultime novità riguardavano i vincoli a fare impresa, sarebbero stati eliminati dentro la bozza del disegno di legge tutti i lacci e vincoli per l'avvio di una nuova impresa, abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti d'assenso della pubblica amministrazione per l'avvio di una attività economica. Direttore Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, buonasera. Buonasera a voi. Allora, per chi non lo sapesse, l'Istituto Bruno Leoni è, per dire l'inglese, il think tank, il centro, il serbatoio di chi è per le liberalizzazioni, per la concorrenza massima. Il vostro modello è Margaret Thatcher, se non ricordo male, e Ronald Reagan come riferimento, diciamo, nel vostro Pantheon. Lo dico perché abbiamo ascoltato in questi giorni tutte le categorie, quasi tutte le categorie che erano contrarie alla liberalizzazione per quello che riguardava la loro categoria. Adesso passiamo, passatemi il tema, da un ultras a un altro ultras. Allora, non ci siamo o c'è un tentativo che comunque si scontra con resistenze? Io ho detto lobby, ma vuol dire anche serbatoio di voto, non c'è nulla di strano. E quindi è comunque un decreto, per quello che riusciamo a capire, che qualcosa riesce a fare. Mingardi. Beh, mi sembra che la durata del Consiglio dei Ministri di oggi testimoni, insomma, il genere di resistenze, di opposizione, la necessità di un tentativo di mediazione da parte di un governo che sarà tecnico, sì, ma alla fine si regge sul consenso dei partiti. I partiti hanno serbatoi di voti molto precisi e tra questi serbatoi di voti ci sono anche alcune delle categorie che sarebbero state colpite da determinate liberalizzazioni. Per quanto vediamo fino a questo momento del provvedimento è qualcosa di veramente sfaccettato e complesso, ci sono dentro cose molto diverse, ci sono degli aspetti credo molto molto positivi rispetto all'apertura della concorrenza in Italia, per esempio è stato detto da più parti la separazione di Snam Rete Gas dall'Eni, ci sono dei provvedimenti che assomigliano molto non a delle liberalizzazioni ma a delle nuove regolamentazioni di alcuni settori, penso per esempio alle norme che riguardano il comparto assicurativo, ci sono delle cose che sono sparite da questo provvedimento ed è un peccato che siano sparite, penso alla separazione della rete da Ferrovie dello Stato, da Trenitalia, mi scusi, e penso soprattutto al fatto che non c'è più nulla, nonostante quanto invece c'era ed era già poco, nella prima bozza della settimana scorsa sul mercato postale, sui servizi postali. E questo, scusi se vado un po' lungo, è un problema soprattutto da un altro punto di vista, cioè le liberalizzazioni dovrebbero far parte di un disegno organico per riportare il paese a crescere e anche, insomma, per inserire questo percorso di crescita nel tentativo, nel cui questo governo è fortemente impegnato, di venire alle prese con i nostri problemi di finanza pubblica. Il fatto di non affrontare la situazione di Poste Italiane oggi nell'ambito delle liberalizzazioni rende molto più difficile pensare a una privatizzazione parziale, per esempio del Banco Posta, domani, quando in qualche maniera il dossier dismissioni andrà riaperto se vogliamo dare qualche segnale al resto del mondo sul debito pubblico. Che resta il segnale più importante che dobbiamo dare. Allora, volete il fiorino di Troisi quando si parla di corporazioni? Io distinguerei adesso anche con Mingardi tra quello che prevede il decreto, stando a quello che abbiamo capito dalla bozza, sulle categorie professionali private, quindi farmacisti, tassisti, avvocati, notai e quant'altro, è quello che invece prevede sulle monopolisti, ex monopolisti partecipate dallo Stato, Eni con Snam, autostrade, quindi le concessionarie, le ferrovie per quello che riguarda le reti e se vogliamo mettere anche in questo gruppo anche le banche e le assicurazioni, perché sono così come, mentre gestori di carburante li metterei nel gruppo delle attività professionali private. Dai, Troisi col fiorino. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Un fiorino. Scusi, sacco, doganiere. Scusi. Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, cioè è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Grazie. Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sono uscendo, no? Un fiorino. Cioè, uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì. Ragazzi, arrivederci. Senta. Ehi! Chi siete? Ma vaffanculo! Cosa portate? Mingari, questi erano i dazi, le gabelle, le corporazioni medievali, no? Che vengono sempre. Adesso lo ricordo quel passaggio di Troisi e Benigni. Sì, me lo ricordo, che... devo dire. Poi anche qualche giorno fa un ex presidente del Consiglio italiano ha definito medievale il sistema delle licenze dei taxi nel nostro paese. Comunque di cose medievali, insomma, in Italia ne abbiamo ancora così per così. Sì, adesso c'è il traffico, c'è una nota però nuova sui notai, ve la devo leggere, se la becco ve la leggo, se no no, perché il numero dei nuovi notai non è più di 500, ma sale a 2000 a questo punto. Questa è una... ecco, entro il dicembre 2014 ci saranno 2000 posti di notaio in più. Questo è previsto dall'ultimissima bozza delle liberalizzazioni, quindi 500 posti entro dicembre 2010, poi sono stati assegnati altri 550 posti per concorso, altri 500 arriveranno entro dicembre 2013, altri 470 entro dicembre 2014, quindi è il calcolo di 2000 posti, però si fa dal 2010, non, quindi è un calcolo anche retroattivo. Traffico, e poi vediamo di capire se è vero, come temono alcuni, che si è liberalizzato sulle categorie private ma non dove lo Stato è azionista, e alcuni dicono forte con i deboli, deboli con i forti, e alla fin fine quello che ci chiedono molti altri ascoltatori: ma perché io il paese dovrebbe ripartire se ci sono più notai, più farmacie, negozi con orari prolungati? Cioè, dov'è il beneficio per noi, che appunto rappresenta il serbatoio di più liberale, quindi più a favore delle liberalizzazioni di questo paese? Non è che si è andati a liberalizzare, cioè a mettere in concorrenza i settori privati, si è osato un po' di meno con banche, assicurazioni, sì, c'è la scatola nera, insomma, ferrovie, qualcosa, ma poco. E autostrade? Ma direi che è opportuno chiedersi un secondo che cosa deve servire una liberalizzazione, perché la risposta è la stessa in entrambi gli ambiti. Sostanzialmente noi non saremmo qua a parlare di liberalizzazioni se avessimo una buona esperienza con la pianificazione dell'offerta di un determinato bene o servizio da parte dello Stato. Allora, il punto non dovrebbe essere tanto quello che il governo decide oggi qual è il giusto numero di notai come ha fatto in passato. Il punto dovrebbe essere quello di mettere più persone possibili nella condizione di entrare in un certo mercato. Perché? Perché ci fidiamo di più dell'incontro tra domanda e offerta che di una pianificazione periodica fatta dallo Stato. Questo vale sia per le ferrovie sia per le farmacie. A me sembra che purtroppo invece quello che si è cercato di fare è stato quello di avere il risultato migliore possibile stanti le regole esistenti. Per cui, fallito il tentativo di ampliare i margini della distribuzione del farmaco, si è aumentato il numero delle farmacie, ma rimanendo sempre all'interno della stessa prospettiva, sì, ecco, politico-intellettuale. Ecco, quello che voglio dire, e lo scrive benissimo un ascoltatore, ma a me cosa cambia se nel mio paese invece che avere un notaio ne ho due? E temo che questo cambi poco. Quello che cambierebbe, se vogliamo parlare di liberalizzazione, è se i notai che tu hai, due, tre o quattro, sono in vera concorrenza. Quindi forse... Non solo, mi perdoni, la cosa che cambierebbe sarebbe se per tutta una serie di atti i notai fossero in concorrenza con gli avvocati. o con i commercialisti, quindi, come avviene in Inghilterra. Con i commercialisti, quindi il senso di un'azione sui notai avrebbe dovuto essere quella di portare fuori dall'ambito dell'esclusiva, per così dire, tutta una serie di cose. La mera moltiplicazione del numero di notai effettivamente lascia il cioè, tempo diciamo che trova. È più una liberalizzazione, un aumentare l'orario dei negozi o eliminare la tariffa minima per avvocati ed altri, quello sì, perché ognuno praticasse la tariffa che vuole e poi sta sul mercato. Se è bravo avrà tariffe alte, se è poco bravo o con poca esperienza avrà tariffe immagino più basse, così come i negozi, io continuo a ripeterlo, se uno vuole aprire la mattina e l'altro vuole tenere più aperto la sera è giusto che si facciano concorrenza, non che aprono e chiudono tutti nello stesso orario con la festività sempre uguale. A quel punto a me non interessa avere 5 fruttivendoli che fanno tutti lo stesso orario, a me può interessare come in altri paesi avere anche solo 3 o 4 o 7 fruttivendoli che faranno orari diversi e vanno in concorrenza su altre fasce. Ma torniamo al punto delle partecipate dello Stato, cioè le autostrade, oggi la borsa ha festeggiato su Atlantia, che vuol dire che ha recepito nella modifica del decreto un ammorbidimento delle posizioni verso in questo caso la società Autostrade, ex Autostrade per l'Italia. Autostrade, l'ENIA, questa cosa della SNAM, Rete Gas, Ferrovie, insomma, anche su, non si poteva fare un po' di più? Allora, qui però sono cose molto diverse. Il punto di partenza sulle autostrade era una cosa francamente un po' problematica, nel senso che si pensava che questa nuova super autorità, che di per sé è un bel punto di domanda rispetto a questo provvedimento, potesse andare a incidere anche sulle modalità di pedaggiamento che sono nel vecchio contratto, nel contratto in essere, e non solo definire le modalità di tariffazione dei contratti nuovi. Questo ovviamente creava come dire, un po' di comprensibile preoccupazione sia sui mercati sia in generale per il rischio paese, insomma noi non possiamo essere sempre l'unico paese al mondo in cui c'è una sola regola, che le regole cambiano quando al decisore politico serve. Cioè lei dice i contratti vecchi e il vecchio modo. Pacta sunt servanda, lo Stato è il garante dei contratti innanzi al resto del mondo, non può essere il primo che poi, mi perdoni l'espressione, se ne frega dei contratti che ha sottoscritto lui. Una cosa ben diversa invece attiene le ferrovie, lì c'era la possibilità di fare una cosa di cui si parla di fatto dalla seconda metà degli anni 90, cioè quella di separare realmente la rete, i binari, dall'incumbent ferroviario. Cioè da chi ci va sopra? Da chi ci va sopra? Dai treni. Dai treni. Cosa che è stata fatta per esempio in Inghilterra prima con qualche problema, ma alla fine con un ottimo successo, c'è una rete dei treni che è pubblica e ci sono treni privati che viaggiano su questa rete. Il successo è stato notevole perché il numero di consumatori di questo servizio è letteralmente decuplicato, mentre negli stessi 10 anni il numero di passeggeri chilometro in Italia è aumentato del 3%, quindi veramente poca roba. Questo sarebbe stato importantissimo perché una separazione della rete e dell'operatore dominante dà una grande garanzia a chi vuole provare a fare concorrenza all'operatore dominante, concorrenza molto difficile soprattutto in un settore maturo quale è quello del trasporto ferroviario. C'è una bellissima contestazione a quanto dicevo prima io, ma insomma se uno ha 2 notai invece che uno, che vantaggio ne ha? A meno che non siano in concorrenza, beh, c'è anche chi dice però attenzione, più notai, più farmacisti, più tassisti vuol dire distribuzione del reddito, perché crea teoricamente posti di lavoro. E c'è un ascoltatore che scrive: un notaio si compra una BMW serie 7, 2 notai si comprano 2 BMW serie 3, va bene anche così come idea della distribuzione del reddito. Però Mingardi, io ho capito quello che lei dice, era sbagliato rivedere accordi presi in precedenza nel caso di autostrade, di più si poteva fare sulle ferrovie. Voi tra l'altro avete premiato quest'anno come Bruno Leoni proprio lo sfortunato fondatore di Arena Ways che poi ha chiuso. Mi dica una cosa, in una battuta, la fase 3, ammesso che si chiude la fase 2, deve essere quella delle privatizzazioni, cioè vendere in maniera sana, non svendendo alcune partecipazioni dello Stato e anche delle municipalizzate locali? Sicuramente deve essere uno dei pezzi della fase 3, ma credo che l'errore più grande che noi potremmo fare lunedì mattina è pensare che il dossier delle liberalizzazioni è stato aperto ed è stato chiuso. Oggi se va bene, se il decreto esce un po' meglio delle sue anticipazioni, è stato fatto un piccolo passo in avanti, però ce n'è da fare per restituire a questo paese un'economia più aperta e più dinamica. Allora, grazie al direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, come sempre, per l'assistenza in redazione. Un augurio a voi tutti di un buon fine settimana. A questo punto, o stasera o domenica, avremo il testo, immagino, definitivo del decreto liberalizzazione. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.